Kellogg. La realtà condivisa. Di Gianluca Nicoletti. Ho più volte dichiarato a questo microfono della mia profonda vertigine della sovrascrittura di ogni convenzione. Ho spesso proclamato la leggerezza come valore assoluto. Ho spesso detto che occorre liberarsi di tutti gli orpelli, di tutti i ricordi, di tutti i cascami, di tutto ciò a cui ci affezioniamo, che altro non è che una zavorra, scene ancorati alla nostra tristezza. Beh, questa mattina farò esattamente l'operazione contraria. Questa mattina proclamerò il piacere sommo della conservazione, del non buttare via nulla, del riutilizzare, del riprendere e ridare vita ciò che in realtà meriterebbe di essere morto, putrefatto, buttato via, cremato, nascosto. Perché lo faccio? Lo faccio per darvi una mano. Lo faccio perché ci avviamo tutti verso una probabilissima stagione di grande emicrania, in cui raschieremo dai muri il salnitro per poter avere nutrimento, in cui dovremo ricorrere alle tecniche segrete dei nostri nonni durante la guerra, quello che facevano, la borsa nera, i bombardamenti. Insomma, oggi con una bella giornata di sole immergiamoci nella mestizia futura e quindi pensiamo come non buttare via nulla. La richiesta che farò questa mattina è aggiungere alla perizia dell'autrice che oggi ascolteremo, che ha scritto un manuale, 101 modi per non buttare via nulla, e con sé Paola Rinaldi. Buongiorno Paola Rinaldi. Buongiorno. Newton Compton, editore, La filosofia del riciclo, talismano di rinnovata felicità. Una giovane e prestante attrice che ritorna alle tecniche conservative delle nostre nonne. Quella terrificante, micragnosa tecnica segreta di non buttare via nulla. Per cui le case straboccavano. Una volta schiattò una nostra vecchia zia. Andammo nella sua casa per mettere a posto le sue povere cose, aprivamo le porte degli sgabuzzini, traboccavano di oggetti. Tutta la sua vita era raccolta in piccole cose putrefatte, che lei elencava, metteva una sopra l'altra, antiche saponette, come avevano perso il loro profumo, bottiglie di vino, di liquori, come erano svaporate. Ho trovato liquori arcaici che nemmeno più sapevo che esistessero, il mille fiori cucchi, quel fiore, quella sorta di liquorino giallo con dentro un ramoscello incrostato di cristalli di zucchero, non lo vedevo da quando avevo 5 anni, e erano circa 30 anni che se lo teneva in quello sgabuzzino insieme a altre mille cose. Trovo anche un vecchio antico vibratore dei primi modelli, quelli giallini, con le pile dentro, che erano naturalmente esplose, avevano buttato via l'acido, quindi era corrotto nella parte posteriore, ma la parte anteriore era ancora lì svettante, pronta, chissà per quale piacere dare alla nostra antica zia, ormai morta da tanti anni, quindi ho doveroso rispetto per la sua memoria. 800240024, date anche voi consigli per non buttare via nulla, fossero anche persone, fossero amori istantii, fossero parenti, fossero figli, fossero gente con cui comunque avete avuto un rapporto. È il momento in cui non si può buttare via nulla, quindi dovete tenerveli, perché anche avere nuovi amori, nuove persone vicino, nuove frequentazioni è un grande lusso e non ce lo potremo più permettere. Ciao a tutti, oggi voglio provare insieme a voi a riutilizzare le graffette. Ciao ragazzi, allora in questo video voglio mostrarvi come ho realizzato queste roselline fatte con la carta. Oggi voglio provare insieme a voi a riutilizzare, in questo caso, dei collant rovinati. Mi occuperò di come personalizzare un cerchietto, ovviamente con del materiale riciclato. In questo caso ci occorre, ovviamente, oltre al nostro cerchietto, del jeans, quindi ovviamente potete tagliarlo da dei vecchi jeans che non utilizzate più. 800240024. Dite esattamente da dove iniziate voi la vostra pratica terrificante, retrospettiva, umarellica, senile, putrescente del riciclaggio. Iniziate a riciclare gli abiti, iniziate a riciclare gli oggetti di uso comune, iniziate riciclando le persone, riciclate il cibo, riciclate gli oggetti di uso comune, riciclate le case abbandonate, riciclate gli amici che avevate tradito e abbandonato, perché sono sempre utili, hanno sempre qualcosa da darci, hanno sempre una parte del nostro tempo futile da poter loro dedicare. 800240024, dateci i vostri segreti del riciclo perfetto. Ciao a tutti, oggi vi voglio far vedere come poter riutilizzare un vecchio vassoio. Oggi vi faccio vedere come realizzare un cuore utilizzando delle cannucce. Oggi andiamo a riutilizzare la base di un uovo di Pasqua. Allora, oltre alla base ci occorre la pistola a caldo, una barra filettata o se no anche un bastoncino di legno, ovviamente spesso, un trapanino, delle rondelle con dei dadi. Paola Rinaldi, non ti distrarre a guardare su YouTube il video di introduzione a questa trasmissione. Per chi non lo sapesse, ogni giorno faccio un video di introduzione e lo pubblico su Facebook, lo trovate nel mio profilo. E in realtà è una piccola parentesi, io proclamo e denuncio l'atto di incolmabile ibris di questa donna che ha tentato di sollevarmi, cosa che nessuna donna potrà mai fare. Ma non ci sono riuscita ancora, però non ci riuscirai mai. No, lo spero. Paola Rinaldi, allora iniziamo subito dalla più indecente le cose, così ci togliamo il pensiero. Io trovo che l'oggetto più vergognoso e più degno di immediata eliminazione della casa sia il rotolino di cartone che avanza quando finisce la carta igienica, perché è un muto e impassibile testimone dei momenti più vergognosi di tutta la famiglia. E tu anche a lui hai trovato una degna risurrezione. Come? Sì, appunto, in quanto ultimo fra gli ultimi. Fammi dire che mi riconosco molto nella zia, tranne per il vibratore, devo dire che gli sgabuzzini di tutti. Beh, perché sono... Perché i tuoi saranno di tipo più recente, quello con gli antichi giallini. Perché forse al giorno d'oggi si può prescindere, appunto, si trovano tanti uomini disponibili, però... Questo è un pregiudizio, però poi ne parleremo in altro senso. Va bene. Però, tornando al rotolino, ho scoperto, facendo quello che voi state facendo, cioè girando per il web, che c'era un'artista straordinaria che si è inventata, credo li venda anche, dei rotolini in cui sempre con la carta del rotolo... No, con la carta, col cartoncino. Col cartoncino, che è già... La carta è stata già usata per... Sì, sì, scusami. Innominabili usi. Il cartoncino che... Quella poi... non è riciclabile. La carta no. No, la una carta, volta usata si butta no. Non esageriamo. Ecco, guarda, invece tu mi apri un attimo su una questione che è molto interessante, che ho scoperto sempre in questo viaggio per Monnezza. Per esempio, persone che conservano talmente tutto, riciclano tutto e pesano quello che non riescono a differenziare. Sì, cioè, sono esempio... dei pazzi, sono degli, si chiamano gli spazzini di sé e niente, riescono a riciclare tutto quanto e sono arrivati a stabilire che le uniche cose che non si riciclano sono spazzolini da denti e pantofole, per il resto noi possiamo riciclare tutto. Quello che cioè, le pantofole quando sono sfondate. Sono sfondate, cioè... ci puoi fare pochissimo. Quello... Il manico dello spazzolino può diventare un piacevole gadget. Sì, so. C'è chi ne fa braccialetti, eccetera. Però quello i che... carcerati ci fanno dei coltelli per sgozzarsi tra di loro. Adesso. Li affilano. Però quello che è inquietante è che, per esempio, questi stessi che fanno tutta questa economia sulla spazzatura, poi dopo hanno il problema della sabbietta del gatto che tengono dentro casa. Ecco quindi che l'ambientalista certe volte è peggio di chi butta. Io consiglierei un gatto mummificato. Che non lascia residui. Non lo so, però dobbiamo metterci d'accordo, appunto, secondo me, su una cosa importante, cioè riciclare tutti senza esagerare, ma riciclare tutti. Questo che vuol dire fondamentalmente differenziare, buttare nel cassonetto giusto. Vabbè, questo non facciamo fammelo la dire, lo so, tu non vuoi fare la politicamente corretta. Vabbè, hai ragione. Allora, a me piace a parlare... galleggiare nella micragna perché è bello esteticamente prendere distanza da chi conserva tutto. Quindi andiamo avanti. Passato il tubo di cartone della carta igienica, che è il più l'ultimo degli ultimi, l'hai chiamato, sì. Proprio quello che fra l'altro oggi li fanno fragilissimi, si autodistruggono, non sono più quei bei tubi di cartone di una volta, sempre più difficile riusarli. Mi ricordo che certe maestre, quando i miei figli erano più piccoli, facevano quegli orribili lavoretti che sono l'apoteosi delle aspirazioni frustrate di ogni maestra di essere un artista. Quindi li avvolgevano con strass colorati, ci mettevano delle mollette, erano degli innominabili oggetti, un portapenne per il papà. Sapevi che nel cuore c'era il tubo di carta igienica che aveva assistito a tutte le tue naturali espulsioni di un mese, ti passava la poesia. Michele, buongiorno. Buongiorno, dottor Nicoletti. Io sono uno di quelli che non butta via nulla. Bravo, avrà una casa piena di robaccia. Ma una casa, una cantina, un garage... Ma vale anche per gli esseri umani? Anche per gli esseri umani. Cioè si tiene tutto quello che ha attraversato la sua vita emotiva? Assolutamente sì. Perché avrà un esercito di fantasmi e di ombre inquiete attorno a lei? No, ma fa parte del nostro bagaglio. Quindi noi dobbiamo conservare anche le memorie anche di quelle persone che ci stanno antipatiche, è vero? Perché dobbiamo ricordare anche queste persone. Ma le dirò di più, che quando passo vicino a cassonetto e vedo qualcosa... che qualcuno ha buttato via che io ritengo comunque interessante, lo raccolgo, me lo metto in macchina, me lo porto in garage. E ma oggi va a fare ombrellate con i rumeni che sono organizzatissimi, vanno lì con i trolley. Assolutamente sì, alle volte capita anche questo, perché comunque io sono nato nel 58, quindi pochi anni dopo la guerra, quindi veniamo da una cultura dove i nostri genitori già non buttavano via nulla. Io ricordo addirittura che mia mamma, ancora quando non esistevano i collant, riparava le calze con, è un particolare che mi è venuto in mente proprio in questi giorni che è venuto a mancare, riparava le calze rotte con un attrezzino che si vendeva, che adesso penso non esista neanche più, oppure con lo smalto. Si usava anche questo. Signor Michele, c'è una scheda, posso interromperla? Sì, c'è una scheda in cui appunto parlo delle calze sfilate. Dico come poi questo benedetto smalto, perché la calza ti si sfila al ristorante e aspetti un promettente dopo cena. Allora vai al bagno, ripari con lo smalto la sfilatura sulla coscia e poi ahimè questo collant sul più bello resta incollato alle cosce. Non te lo devi levare più, però dopo sembra che c'è il morbillo, cioè tutte macchie sulle cosce, cioè finisce malissimo. E però è una cosa che riguarda anche appunto le donne di adesso e viva Dio anche mi scusi, l'ho interrotta. Ma usa ancora Paola, usare il assolutamente, ti succede questa cosa? Ma anche sull'autoreggente a rete si mette lo smalto? Sì, assolutamente, perché è l'unica maniera che hai rapida per brucare. Tant'è vero che molte donne tengono quelle che adoperano le autoreggenti, io sono pessima da questi calzettoni, quelli beci. Però evidentemente c'hai la boccetta dello smalto che tieni proprio per la sfilatura. E ripeto, però certo, se dopo tu ti vuoi levare le calze con grande fascino, la calza resta incollata là, la coscia, tieni, fai delle fiori. Vabbè, adesso questo sei tu. Però insomma, invece io propongo un riciclo sulle calze sfilate che possono diventare, lo spiego nel libro, tappetini, una serie di cose e poi devo dire che si sfilano le calze con gran piacere perché uno sa che poi le ecco, può riciclare. Andiamo a questo punto, le calze usate ci si fanno, io mi ricordo, è un ricordo lontanissimo, sì. Non so chi, qualche vecchia zia o qualche nonna, facendo una specie di cose intrecciate. Bravo, le è una cosa orribile. Tra l'altro le calze a quei tempi non è come oggi che erano fantasticamente, erano calzacce color carne, si andava dal bianco monaca al marroncino cadavere putrefatto, era una cosa orrenda. Sono d'accordo, infatti bisogna rinnovare il riciclo, è quello che cerco di fare nel libro, vale a dire che tu devi scegliere un assortimento e poi devi imbellire con delle palline che diventano ricamo sul tappetino e il riciclo che a te ti faceva schifo diventa una roba come quella che compri nei negozi più esclusivi e che paghi un sacco di soldi. No, perché Gianluca, ero bambino, avevo un olfatto molto sviluppato. Vedere questi tappetini che hanno degli scendiletti fatti con le calze intrecciate mi sembra sì. Che mantenessero in sé impregnata la puzza dei piedi delle ma nonne. Ma quello sei tu che hai una sensibilità, te l'ho già detto, che non è normale. Però facciamo parlare. Antonio, buongiorno. Buongiorno a lei. Stavo ascoltando la sua trasmissione. Attizzatissimo. Allora, lei cosa ricicla? Ma tu. Cosa riciclo? Dipende dalle esigenze che ho, insomma, se devo fare un lavoro, se non trovo il pezzo in commercio, cerco di inventarmelo e di farmelo. Lei con i manici degli spazzolini usati cosa farebbe? Perché questo è l'unico oggetto che abbiamo detto non è riciclabile. Questa è una domanda che faccio per quest'uomo il pubblico. È un demonio! No, non lo so, però essendo di plastica possono essere utili, che so, per lavorare la cartapesta, visto che ecco, vedi, delle spatole per lavorare la creta o la cartapesta. Allora fatemi dire che sono l'esperta, lo spazzolino da denti non andrebbe mai buttato perché se sciaguratamente si pesta la cacca per strada, poi dopo è l'unico metodo per pulire. Io gli spazzolini da denti non li butto mai, li conservo perché poi mi servono per pulire cose piccole, bene. Pezzi di lavatrice se devo pulire. Sì, ma fa schifo, c'è tutto il tartaro intasato di mesi di lavaggio di denti. No, ma farà più schifo la cacca sotto le sole, scusa Gianluca. Non lo so, io sto molto attento. Dipende, è più un atteggiamento mentale che una moda. Se uno ci è abituato funziona, se uno lo fa per moda è un macello. Poi vedi com'è bello, stiamo galleggiando in dei ricordi miserrimi e galleggiare in questi ricordi miserrimi ci farà uscire da questa trasmissione sollevati felici, sì. E la crisi ci sembrerà una bazzecola di fronte allo spazzolino da denti usato portato in tasca per scostarsi la suola delle scarpe. No, non sono dei ricordi miseri, ci potrebbero aiutare. Oggi effettivamente c'è molto spreco. Quindi è ovvio che poi bisogna. Ma com'è che lei è più giovane di me e parla come se fosse mio nonno? A me queste cose fanno orrore. Le dico perché. No, perché in primis io sono stato abituato a non sprecare. Poi sin da piccolo, non so se a lei fa piacere o dispiacere, ho fatto il Boy Scout. Quindi lì no, ti è devi... mio nonno. Lì sceglie le superversioni a suo piacere. Lì ti devi arrangiare fin da piccolo. Sei lì da solo senza i tuoi genitori, quindi se ti si rompe la cerniera te devi aggiustare. Se non hai portato ago e filo, sono cavoli tuoi. che ci devi pensare prima. È un atteggiamento mentale. Un giorno lei ha fatto una trasmissione sulla sopravvivenza e diciamo che i discorsi sono molto simili, molto affini. Allora, Paolo Rinaldi, sulle cerniere lampo come si riciclano? Le cerniere lampo, però fammi ti dire la cosa più schifosa, perché a questo punto sento che ti piace. Allora, beh, piace. Sai che cos'è la tazza di luna, tu? No. Che è la tazza di luna? Non te lo dico, vattela a vedere. È un modo per evitare lo spreco di cellulosa mensile da parte delle quelle cose, donne. Quelle coppette orrende mestruali che si mettono le donne. Non lo so, non ho voluto sapere. Ho avuto discussioni terribili. Ecco, invece... Sì, una specie di coppettina che vi mettete, che si svuota. Lasciamo no, perdere. Mettete... Andiamo al punto. Le cenere lampo, come si riciclano? Le cenere lampo in questo momento si riciclano in piccole medagliette, i dentini si incollano fra loro, escono fuori dei graziosissimi ciondoli, e proprio sul web tu trovi una giapponese che ha fatto delle collane meravigliose e che le mostra con un coniglietto che si muove sul fondo, e questa tipa fra l'altro dà una serie di consigli femminili, fra cui come depilarsi, ed è bellissimo perché appena parte il rasoio il coniglietto scappa. Non oso pensare che cosa faccia. Come depilarsi con queste cerniere lampo riciclate? No, lei fa vedere come depilarsi appunto con un rasoio elettrico. Non oso pensare che sporge pericolosamente sul coniglietto, non oso pensare il consiglio sulla cera a caldo col coniglietto. Vabbè, rientriamo nelle pratiche sadomasochistiche. Esatto. Gastone, finalmente Gastone ci illumina. Buongiorno Gastone. Buongiorno. Senta, io sono come quell'ascoltatore di prima che non butta via niente. Sono del 57 però, un anno più di lui. Lei con gli spazzolini, con gli spazzolini da denti usati cosa fa? Allora, dirò in qualche maniera. Si puliscono gli ugelli delle pistole a spruzzo, si puliscono le limette da modellismo, perché con lo spazzolino da denti, soprattutto se è abbastanza consumato, si tolgono i truccioli dalle limette. Poi, guardi, con il manico, che lei non sapeva cosa fare, manico, soprattutto di quelli di... quelli un po' rigidi, non quelli di adesso ricoperti. Beh, oggi sono bellissimi, hanno dei manici con nervature in gomma, c'è tutto. Sì. Ma con quelli proprio semplici si fanno le spatoline per lo stucco, si fanno le spatoline per mescolare nei barattolini piccoli degli smalti da modellismo. Vanno lavorati con la mola, bisogna un pochino... Sì, bisogna essere attrezzati. Io sono un hobbista abbastanza spinto, mi piace il modellismo, mi piace le miniature, faccio quelle cose lì, presepi. Si possono fare i cacciaviti per le viti di nylon. Ah, che non bisogna, si rompono, è vero? Bisogna farli in plastica, perché sennò i cacciaviti temperati di ferro, di acciaio, rovinano le teste. E tutte quelle cose lì si possono fare con... Si fanno anche, io col manico dello spazzolino faccio il manico delle limette, perché le limette da modellismo non hanno manico, sono piccolissime, il mio arco. Ah già, sono già anatomici, poi ci sono degli spazzolini moderni che sono fantastici. Si fa il buchino, si scalda un attimo il manico della lima e si infila dentro, c'è un manico perfetto per la lima. Perfetto, questo ci mancava, sarà il capitolo aggiuntivo nel libro 101 modi per non buttare via nulla di Paola Rinaldi. Melog. La realtà condivisa. In questo video vi spiegherò come realizzare questo cestino saponetta. Quest'oggi vi mostro come si possono riciclare delle candele che magari avete utilizzato e non sapete più cosa farne. Oggi spieghiamo praticamente come si modificano i vestiti. Ciao, oggi volevo proporvi una soluzione per utilizzare un jeans lungo rivisitato per la stagione estiva. Prendiamo dei pezzettini di giornale, in questo caso sono di un quotidiano, un po' di alcol, una base trasparente e questo è tutto. 800 24 0024, cominciate a darci i vostri consigli, a integrare quello che stiamo facendo questa mattina, dando esposizione di quelli che sono i 101 modi per non buttare via nulla, libro per Newton Compton scritto da Paola Rinaldi, che racchiude in sé la filosofia del riciclo, che l'autrice vede come un talismano di rinnovata felicità. Il talismano della felicità era qualcosa che apparteneva alle nostre bisnonne, era la rubrica per le signore come essere brave madri di famiglia, ottime spose, impassibili collaboratrici della armonia domestica. Beh, oggi in un momento di profonda crisi, invece che preoccuparci del calo dei consumi, iniziamo a riciclare le candele, iniziamo a riciclare gli spazzolini da denti, iniziamo a riciclare quegli oggettini che normalmente buttiamo via. Paola Rinaldi, io sto osservando un fenomeno che mi interessa molto. Noi buttiamo via molte robe nei nostri cassonetti. Nottetempo esistono degli squadroni che girano per le nostre città ormai con il loro carrellino della spesa, tutti uguali, con l'ombrellino, con il ferretto, che alzano il coperchio e il cassonetto e portano via tutto quello che buttiamo via. La mattina dopo gran parte di noi va a ricomprare le stesse cose che ha buttato in dei mercatini improvvisati all'uscita delle metropolitane. Come te lo spieghi? Sì, è un fenomeno in crescita. Pensa che i grandi centri, magazzini dell'usato, hanno un problema. Quando si riuniscono nei meeting i capi di questi, che ormai sono delle catene di grandissimi centri, hanno un problema, cioè non hanno il finanziamento delle banche, perché se avessero il finanziamento delle banche, adesso che apre un garage riciclato anche lui e diventa grande magazzino dell'usato alla settimana, in realtà coi finanziamenti delle banche ne aprirebbero tre. Quindi, al di là degli aspetti modaioli, perché quindi esiste un mercato della roba usata? Esiste un mercato fiorentissimo, una cosa, 14 miliardi di euro l'anno è il movimento di questi centri. È una roba sconvolgente, basata fondamentalmente sulla professionalità che occorre nel distinguere e prezzare gli oggetti, ma poi si vende tutto. E guarda, questo te lo posso confermare, qui se mi danno una base ti faccio una piccola lettura del libro. Adagiti mollemente sulla base che il professor Chiappini ha preparato. Grazie. Per te. Per capire quanto i centri o magazzini dell'usato possono migliorare la gestione quotidiana delle cose e l'intera vita, invito al seguente esperimento. Radunare le bomboniere conservate in una vetrinetta e conteggiare quante sono quelle che provengono da matrimoni che si sono rotti. Le bomboniere, pur essendo fatte di materia fragile, sono sopravvissute a coppie che non esistono più. Se al cavallino imbizzarrito corrisponde il divorzio, neanche le ali protettive di un angelo sono riuscite a salvaguardare le nozze. Il portaconfetti, simbolo arrogante quando è avvolto nei veli, messo in vendita tra i piattini e i suoi promobili, ridiventa quel che è, un oggettino. Attenzione però, per avere accesso alla vendita, il gilgillo, oltre a non avere falle o sbeccature, non deve riportare incisioni di nomi o date. Le regole del franchising consentono perciò ben più significative constatazioni. Se la bomboniera può tornare alla sua natura originaria di oggetto, è obbligatorio non riporti all'interno, sul fondo e men che meno in bella vista, anche solo le iniziali degli sposi. Proprio come nella vita, dove finito un legame si torna ad amare, ma è necessario farlo senza avere addosso i segni dell'unione precedente. Scusi, ma ogni bomboniera ci sono le iniziali degli sposi, sennò che bomboniera è? No, non su tutte. Ecco, quelle non le puoi portare ai magazzini di usato. Però fammi perché? Dire. Perché? A me invece piacerebbe. Vabbè, ho capito, ma loro Antonio non e Giovanna uniti per la vita e poi mai sono già traditi 50 volte. Te l'ho già detto, non tutti sono perversi come te. Allora, la questione è che tu con 12 bomboniere tiri via 50 euro al netto della commissione. La gente ci fa tazzine da caffè, cosa ci fa? No, la gente compra quello che prima era veramente un oggetto così che ti imponeva un po' di appunto terrore e poi ricordi e poi tante cose, tu lo metti in vendita e quello viene venduto a 12-15 euro e tu incassi la metà. Sembra impossibile. Carmen, attenti, buongiorno. Sembra impossibile. Carmen. Buongiorno, Carmen. Sì. Buongiorno. Pronto, mi sentite? Certo. Siamo niente, pieni volevo, di attenzione. Io non riciclo granché, però gli spazzolini da denti sì. Ecco, abbiamo trovato un filone. Utili. Abbiamo scoperto un filone. Dovrò scrivere un altro libro. Cosa fa lei, Carmen, sì, con gli spazzolini? È molto comodo per pulire quando pulisco il bagno, per graffiare il quello che si forma vicino ai rubinetti, intorno alla base dei rubinetti. Il calcare. Ecco, sì. Il calcare. Ci metto l'anticalcare su, sfrego e viene tutto. Brava. Via. E poi? E niente, poi quando si forma il calcare anche nei filtrini, con quello spazzolino... Quali filtrini? Ai filtrini degli dei rubinetti? Sì, sì, esclusivamente per quello, guardi. Poi se ne ammucchiano tanti di spazzolini, quindi uso e getto ogni volta che mi serve all'occorrenza. Quindi lei non vede l'ora di mettere via lo spazzino vecchio per riusarlo poi per questi fantastici usi? Sì, sì, lo trovo utilissimo. Perché ha quella rigidità di setole per cui graffiano bene e viene lucidissimo. Vabbè, ma oggi sono quelli con lo stimolatore interno in gomma, vedi, sono i nuovi spazzolini, all'interno c'hanno una parte in gomma che non so se poi funziona per pulire lo sporco. Fabio, buongiorno. Ah, buongiorno, dottor Nicoletti. Lei di cosa vuole parlare? Anch'io ho un contributo sull'uso degli spazzolini da dentro. Cosa ne fa lei? Che mi conservo per l'estate e porto sempre insieme per pulire i vetri delle maschere da subacqueo, anche dei bambini, col dentifricio. Ma questa non la sapevo. Perché così non si appannano più. Quindi anche un vecchio tubetto di dentifricio dove ne è rimasto poco, che non piace tanto tenerlo in bagno. Li mette da parte praticamente? Li metto da parte e li unisco insieme a ciascuna maschera. Quindi lei, diciamo, nei suoi contenitori di raccolta differenziata ha una scatola per i tubetti spremuti dentifricio e una scatola per i vecchi spazzolini? Più o meno. Ma, e quali altre schifezze mette da parte per poi farne un uso intelligente? No, schifezze no, però trovo fantastici gli elastici che servono per tenere i mazzi degli asparagi. Non so, sono di una qualità bellissima e non so chi li venda. Come sono fatti? Ma sono elastici, probabilmente di caucciù, verdi. Ah, quelli per gli asparagi. Ma sono, penso, elastici da cancelleria. E una volta tolti dall'asparago, dove se lo mette l'elastico? Cosa ci fa? Li metto dentro delle scatoline. Ma come? Ma che ci fa dopo? Niente, li tengo per... Io sono del 59, probabilmente c'è qualche simmetria rispetto agli altri ascoltatori. Anch'io sono del 59, sì! Abbiamo scoperto che il 59 è stato un anno che ha condizionato geneticamente al riciclaggio. Mario! Buongiorno. Lei cosa ricicla? Ma è sempre con lo spazzolino, no? Qui purtroppo esiste su questo. No, ma è interessante, abbiamo scoperto, è una notizia. È un filone, come giustamente diceva lei. Allora, da rapporti ufficiali del Dipartimento della Giustizia americana, sì, in un mucchio di carceri hanno sequestrato degli spazzolini che venivano lavorati in questo modo, cioè l'estremità dove... Ma io l'ho detto all'inizio, ci fanno dei coltelli, degli oggetti trontunati. Io non l'avevo sentito. Certo, loro prendono una lametta di quelle usa e getta, la levano dalla sua custodia, scaldano fino a farlo diventare fondente il materiale plastico dello spazzolino e poi gli annegano dentro la lametta. A quel punto diventa un'arma anche letale, perché sporge molto di più di sì, è sufficiente per tagliare la gola a un altro detenuto. Certo, infatti, oppure sfregiare. O per sfregiare, o anche per tagliarsi e essere portati in infermeria. Sì, ma l'hai saputo, l'ho detto all'inizio. Poi le dico un'altra cosa, con gli spazzolini ci sono delle persone che vanno a pescare, che non hanno i soldi per comprarsi delle esche artificiali che sono molto costose, e modellano i manici degli spazzolini a forma di pesciolino, alla fine gli mettono un'ancoretta e poi lanciandola nell'acqua, questo, se gli è stata data la forma giusta, si muove come un piccolo pesce e attira i lucci infatti uno sceglie, magari quando va a comprare lo spazzolino sceglie uno spazzino rosso se vuole pesce rosso, azzurro se vuole un pesce azzurro, sì, un piccolo merluzzino. C'è una persona che conosco che ha un'ottantina d'anni che mi chiede sempre: non buttare via gli spazzolini, adesso purtroppo lui è disperato perché non ci sono quei là di quella bella plastica trasparente che era blu, rossa, gialla, e quelli non esistono più, che avevano molta attrazione. Adesso sono molto colorati, soprattutto di materiali difficilmente lavorabili, perché fanno dei manici di gomma morbidi, anatomici, con le sottili nervature in caucciù per aumentare la presa, quindi è difficile farne quest'uso. Melog, la realtà condivisa. Ogni volta che comprate dell'acqua minerale o una bevanda, portate a casa non solo il contenuto, ma anche il contenitore. E siamo venuti in Piemonte per farvi vedere un nuovo modo di riciclare queste bottiglie. Questa macchina, pensate, che è in grado di digerire fino a 10.000 bottiglie al giorno. E come funziona? Queste macchine sono sempre collocate in prossimità di un supermercato al quale potete richiedere una tessera come questa, viene rilasciata gratuitamente e funziona così. La mettete nella macchina, mi ha dato il benvenuto e mi chiede di inserire la bottiglia. Ogni bottiglia corrisponde ad un punto che viene caricato sulla tessera e poi al momento della spesa dà diritto ad uno sconto. Questa macchina, che si chiama Mr. Pet, comprime le bottiglie per esigenze di spazio e pensate che è in grado di contenere il volume pari a 30 cassonetti per la raccolta della plastica. Questo era un servizio di Striscia la Notizia in cui mostrava una macchina avanzatissima che divertendo chiedeva alle persone, invogliava le persone a riciclare le bottiglie di plastica. Ho in studio Paola Rinaldi, autrice di 101 modi per non buttare via nulla, Newton Compton, che, visto che l'argomento portante di questa trasmissione è diventato proprio lo spazzolino da denti, tu mi dicevi che c'è un problema rispetto al riciclo dello spazzolino da denti. Perché è il problema degli spazzini da sé insieme alle pantofole? Perché non va messo nella differenziata, quindi va nell'indifferenziata, è quel materiale che andremo a consegnare a morte certa. Per quel che riguarda questa cosa interessante delle bottiglie, anch'io nel libro ne parlo e dico come in Italia purtroppo queste macchinette non arrivino e invece aumentino i bingo che erogano le slot machine, che erogano difficilmente bonus. Ma intrattengono la terza età, le bottiglie no. Uno scandalo, però va bene. Ecco, da noi devono arrivare ancora tutte queste pratiche, perché all'estero cash for trash, cioè denaro in cambio del rifiuto, è una realtà importantissima. E stesso Steve Jobs ha cominciato mettendo da parte i 5 centesimi della bottiglietta della Coca-Cola che raccontava nel campus dove studiava in maniera fallimentare. Ci ha fatto un viaggio, è andato in India, è stato raggiunto dall'illuminazione del computer portatile e come dice lui, affamati e folli, affamati di rifiuti, avidi di rifiuti possiamo esserlo perché strabordano dalla nostra pattumiera, e niente quanto il rifiuto ci consente di essere pazzo, perché tanto se anche non venisse fuori il capolavoro dal nostro riciclo, la materia era comunque destinata con le bottiglie di plastica. Cosa fai te? Con le bottiglie di plastica nel mio libro faccio di tutto. Il più tenero dei ricicli mi arriva dalla Russia post-sovietica ed è un contenitore di fili che sembra quasi un veliero in cui dentro galleggiano i rocchetti di filo e che ti serve a te donna per tenerli. Io lo so Gianluca, qua c'è un problema. Noi donne ci occupiamo del quotidiano, vedo che però telefonano anche tanti uomini con gli utilizzi per i loro lavoretti, appunto la pesca, tenere in ordine. E non a caso l'incipit del mio libro è: non solo alcol e sostanze stupefacenti, anche l'abuso di lavatrici, aspirare la polvere tutti i giorni e mettere continuamente le mani nella sporcizia sono pratiche che alla lunga bruciano i neuroni e i migliori propositi. Quindi ci si inventa delle soluzioni sì per risparmiare, ma anche proprio perché ti rallegri scoprendo quanta creatività tu che fai le faccende tutti i giorni puoi mettere. Certo, i carcerati sotto hanno un topolino per giocare, chi non c'ha il topolino gioca con lo spazzolino. Buongiorno Alessandro. Buongiorno a tutti quanti. Tanto per cambiare argomento, lei cosa deve suggerirci? Lo spazzolino da denti, si colgono le setole possibilmente leggermente piatti e sagomati, e poi li uso come bacchette per il sushi. Anche col caucciù, perché non scivola. Sì, ma le posso dare una notizia? Li regalano. Prego. Se va nei ristoranti giapponesi, li regalano. No, lo so, ma è una questione di igiene. Lo posso mettere a lavare in lavatrice, in lavastoviglie. E invece il bambù riciclato, non so come è fatto, magari inquinato, che ne so, boh, invece mattizza di più il... Lo spazzolino usato. È bellissimo. È sempre in bocca tanto, scusa. Sì, vabbè, ma bisogna la bocca di chi per farne cosa? Comunque. Mia. La mia, mia moglie c'ha la sua, la bambina c'ha la sua. Scusa, adesso non esagero, cioè, i miei sono blu e quelli di mia moglie sono rossi. Ma la plastica poi non è proprio il materiale più adatto per usare le bacchette. Comunque ognuno no, è libero. No, quelli col caucciù, proprio quelli che citava lei, quelli con la gomma, non scivola il pesce. Capisci? Ah, ecco, quelle protuberanze nel manico servono a non far scivolare il pesce. La bacchetta invece casca giù il pezzetto. Esatto, perché rincoglionito come me non c'è. Perché non la sapete prendere in mano però la bacchetta. Assolutamente, non è più semplice imparare a farlo. Comunque va bene. Carlo, buongiorno. Carlo. Ciao Carlo, Gianluca. Sì. Sono il solito vigile del fuoco precario. Ti telefonavo per mia moglie ha scritto un libro ma non abbiamo trovato l'editore, eccetera. Si intitola Scarti, ci sono diversi capitoli brevemente in cui si parla di ricette, non solo la solita pasta riciclata con la frittatura. Fammi un esempio allora. Un esempio sono gli scarti del pollame per fare il brodo, il brodo utilizzato per la pastina del bambino piuttosto che poi per l'impasto, la farina che avanza con le uova, non solo per fare la pasta piuttosto che poi per fare i biscotti. Beh, bellissimo, così uno gioca diciamo i piccoli sopravvissuti alla guerra atomica, queste cose così. senza dover sempre strafare o dover fare cose nuove, perché anche nell'umido, che poi va bene, può essere riciclato per la terra con la composta, è giusto anche lì ottimizzare. Siamo in un clima di crisi, non dico che ci dobbiamo. E cosa ci fate con la spazzatura umida? Al peggio. Sai, io sono uno di quelli che separa tutto il possibile, per cui l'umido va poi portato nel bidone apposito nei piani interrati della palazzina, che poi ovviamente ci si auspica che le autorità le portino nelle composterie per poi portarle nelle campagne. Mi sembra un'ottima tecnica per passare il tempo e mantenere unita la famiglia. Franco, buongiorno. Buongiorno, io chiamo da Modena e sono un riciclatore per natura, diciamo, così. So fare tante cose, ma la cosa che probabilmente interessa molti è il mio utilizzo dei refill di pendebiro, quelli che sono di ottone, e mi servono per riparare le pipe che si rompono quando cadono, ha capito? No, come si funziona? Io, diciamo così, tolgo quella parte che rimane dentro e poi dopo faccio un piccolo buchetto con il trapano, poi con una colla ripristino tutto e funziona anche molto meglio di prima. Il bello della pipa è l'aroma della radica. Sì, ma non cambia assolutamente. Lei fuma dentro un tubicino d'ottone in cui c'è stato l'inchiostro, non mi pare proprio. No, ma lo pulisco naturalmente con dell'alcol e così via. Beh, un fumatore di pipa inorridirebbe però di fronte no, a questo. No, non credo, guardi, perché nessuno se ne accorge. Quindi lei, diciamo, mette questa sorta di supporto, di protesi interna, è un... Sì, bravo, proprio così. È un bypass all'interno della pipa. Non cambia assolutamente niente, perché io non faccio altro che sostituire quella parte di plastica dura e nera che noi, diciamo così, vediamo quando fa parte del bocchino della pipa. Vabbè, di osso, non è di plastica. No, ma non si preoccupi. Il problema mio sa qual è? Che io, riciclando tutte queste cose, quando mia figlia, diciamo così, si troverà questa scatolina di refill usati e inutilizzabili, dirà: mio padre era pazzo. Ah, quindi quando dovranno le scatolette dei vostri avanzi e diranno cosa ci faceva mio padre con i refill, e mai scoprirà che stanno all'interno delle pipe rotte. Allora, siamo in conclusione. Paola Rinaldi, 101 modi per non buttare via nulla, hai lasciato una sorta di parentesi aperta per una prossima edizione del tuo libro. Il capitolo sugli spazzolini da denti da riciclare senz'altro sarà l'appendice necessaria alla prossima edizione. È esattamente questo che mi ha spinto in questa scrittura, cioè scoprire quanto veramente la mente umana, tanto più di fronte al rifiuto, tiri fuori davvero delle doti insospettabili di creatività e fantasia. Grazie a Paola Rinaldi, grazie a Alessandro Cappini e Fabrizio Intonti, a domani.